Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Must a man walk down before you call him a man? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Quante strade deve percorrere un uomo prima che lo si possa davvero chiamare uomo? E quanti mari deve sorvolare una colomba bianca prima di poter riposare nella sabbia? E quante volte le palle di cannone dovranno ancora volare prima di venir bandite per sempre? La risposta, amico mio, sta soffiando nel vento. La risposta sta soffiando nel vento. Le parole che avete appena sentito risuonano nel vento, nelle radio, negli stereo e sulla bocca di milioni di persone da ormai mezzo secolo, a partire dal lontano 1962. Sono parole scritte e cantate da Bob Dylan, un uomo che con le sue note e le sue poesie ha riempito gli ultimi 50 anni di storia dell'umanità, non solo di storia della musica. Un cantante, un poeta, un rivoluzionario, un santo, un peccatore, un angelo, un diavolo, un genio, un imbroglione, un profeta, un impostore. Bob Dylan è stato chiamato via via con ciascuno di questi nomi. Non creare nulla. Qualsiasi cosa sia verrà fraintesa. Dopodiché non potrai farci niente e ti perseguiterà per il resto della tua vita. Questo è quello che scrive Dylan nel 1964, ad appena 2 anni dal suo esordio nel mondo della musica, già stanco e nauseato da una serie ineludibile di ingranaggi di cui si sente inevitabilmente preda. Equivoci, depistaggi e colpi di scena hanno caratterizzato da sempre il suo rapporto con la stampa e col pubblico. Lui, da parte sua, ha sempre ostinatamente rifiutato qualunque tipo di definizione. È stata la sua arte, molto prima e molto più dell'artista in persona, a parlare. La musica di Bob Dylan per decenni ha fatto da colonna sonora alle speranze e alle delusioni di un mondo in evoluzione. Non è da tutti poter dire di essere stati i protagonisti di una delle giornate più emblematiche del XX secolo, l'8 agosto 1963, il giorno della storica marcia su Washington per il lavoro e la libertà. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. We Shall Overcome è una delle canzoni che hanno fatto la storia del movimento per i diritti civili, movimento di cui Bob Dylan da giovanissimo si è fatto interprete. Da dove scaturiscono la sua vena folk, il suo strenuo attaccamento a tematiche sociali di grande respiro, il suo piglio da santone della modernità? In quale passato musicale e personale affondano le radici del mito di Bob Dylan? La sua storia, fatta di apparizioni e sparizioni, di verità e di menzogne, inizia, manco a dirlo, da una gigantesca bugia. Bob Dylan, in realtà, non è mai veramente esistito. Un cratere gigantesco, la più grande buca mai scavata dall'uomo, a sentire certi manifesti voluti dallo stato del Minnesota. Una voragine lunga quasi 5 chilometri, larga fino a 1,5 chilometri e profonda 150 metri. Sembrerà assurdo, ma questa è stata per anni l'attrazione turistica più in voga di quelle zone. A Hibbing, nel Minnesota, non ci sono altro che minatori. Non è certo un posto per musicisti quello in cui cresce Robert Allen Zimmerman, l'uomo in carne, ossa e cognome di origine ebraica, che un giorno non lontano fuggirà da quella terra ferrosa per creare il mito di Bob Dylan. Io credo che le vere canzoni di protesta siano nate negli anni 30, 40. Erano le canzoni dei minatori, dei lavoratori, dei sindacati. Da lì si sono sviluppati i primi movimenti di protesta. La terra da cui proviene il giovane Robert Zimmerman non è altro che la tomba di decine, centinaia, migliaia di lavoratori, costretti a spaccarsi la schiena nei giacimenti minerari della Iron Range, zona ricchissima di ferro situata a nord-est dello stato del Minnesota. È in luoghi come questi che nei primi decenni del Novecento si giocano i destini della popolazione della più grande potenza al mondo, quella che sarà in grado di vincere due guerre di proporzioni inaudite e di zittire l'altrui dissenso con l'atomica. Il cuore dell'America in quegli anni batte nel petto dei minatori, degli operai, di tutti i lavoratori e di chi canta le loro fatiche imbracciando una chitarra. I got that dust, pneumonia in my lung. I got the dust, pneumonia in my lung. And I'm gonna sing this dust pneumonia song. La voce che sentite è quella di Woody Guthrie, storico cantore dell'America profonda. I suoi blues parlati, precursori delle future canzoni di protesta, entrano come lame nelle orecchie di un giovanissimo Robert Zimmerman, che a un futuro come lavoratore nelle miniere preferirebbe decisamente quello di musicista. La musica sconvolge le vite dei figli della guerra, nati negli anni dolorosi del secondo conflitto mondiale e cresciuti sulle macerie del vecchio mondo. Gli anni insipidi della presidenza Eisenhower, movimentati soltanto dalle follie anticomuniste e dalla caccia alle streghe di McCarthy, si riscattano a suon di rock and roll. Bob passa ore interminabili a frugare tra gli scaffali di Crippa, l'unico negozio di dischi di Howard Street a Hibbing. Hank Williams, Bill Haley, Elvis Presley. Nella testa arruffata dell'adolescente Zimmerman risuonano e si affastellano melodie e ritmi in sequenze copiose, travolgenti, capaci di stordire chiunque. Little Richard gli infligge il colpo di grazia. Il vero e proprio cataclisma sonoro che segue l'urlo iniziale di Tutti i Frutti ipnotizza Bob insieme all'innegabile stravaganza del suo autore. Little Richard è probabilmente il primo sciamano del rock, il primo a indossare abiti stravaganti, a portare i capelli lunghi, a girare su una Cadillac rosa. Bob ne è affascinato al punto da volerlo imitare a tutti i costi. Si siede al pianoforte e improvvisa dei numeri forsennati copiando nelle movenze, le grida, il piglio decisamente anticonvenzionale. Forma un complesso con gli amici di scuola e impara a suonare un po' tutti gli strumenti, dal piano alla chitarra passando per l'armonica a bocca, che ben presto diventerà un suo tratto peculiare. Poche certezze, ma incrollabili. Vuole andarsene al più presto da quel mortorio di Hibbing e vuole diventare una rock star. Sogni normali per un sedicenne qualunque. Quelli di Bob Zimmerman, però, sono destinati a trasformarsi non lontano in realtà. Nel 1959 Bob lascia Hibbing per Minneapolis, la capitale dello stato del Minnesota. Ha la scusa perfetta. L'iscrizione al college gli consente di star lontano da casa e dedicarsi a tempo pieno alla musica. Ai libri non ci pensa lontanamente. Alla fine del primo anno molla gli studi senza rimpianti e si dedica anima e corpo alla musica. Suona nei locali della città, si fa conoscere nell'ambiente cittadino, inizia a farsi chiamare con un altro nome, quello che passerà alla leggenda. Quando nasci possono capitarti i genitori sbagliati o il nome sbagliato. Insomma, sono cose che capitano, no? Poi tu puoi decidere di farti chiamare un po' come ti pare. Siamo nella patria della libertà, giusto? Ispirato dagli splendidi versi del poeta Dylan Thomas, Robert Zimmerman indossa definitivamente i panni di Bob Dylan e inizia a dedicarsi alla musica a tempo pieno. Non gli interessa nient'altro al mondo. Non so esattamente quando mi venne in mente di scrivere canzoni. Anche volendo dare un'idea di come io vedevo il mondo, non sarei mai stato capace di venire fuori con niente di lontanamente paragonabile ai versi delle canzoni che cantavo. Sono cose che accadono per gradi. Non ci si sveglia un bel giorno con il bisogno di scrivere canzoni, specialmente se si canta già, se se ne hanno molte in repertorio e ogni giorno se ne imparano di nuove. Può darsi che capiti di convertire qualcosa che esiste già in qualcosa che non esiste ancora. Forse è questo l'inizio. Succede che uno vuole fare le cose a modo suo, vuole vedere con i suoi occhi quello che si nasconde dietro la cortina di nebbia. Nel frattempo la passione di Bob per il rock and roll, dopo l'esplosione iniziale, è un po' sfumata in favore di quella più antica e radicata nei luoghi in cui è cresciuto, per la musica folk. Il rock and roll per il neonato Bob Dylan non è abbastanza serio e non rispecchia la vita in maniera realistica. Certo, il suo ritmo è accattivante, i suoi riff conquistano chiunque, ma non è sufficiente. Le canzoni folk sono fatte di un'altra pasta, intrise come sono di disperazione, trionfo, sentimenti profondi, contrastanti. Bob Dylan si ritrova così a seguire le orme di uno dei primissimi cantori folk dell'America, il celeberrimo Woody Guthrie. La prima canzone di una certa importanza che ho scritto l'ho scritta per Woody Guthrie. I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Hear paupers and peasants and princes and kings. Quella che sentite è la prima canzone in assoluto che sia mai uscita dal cilindro creativo di Bob Dylan. Si intitola Song to Woody, canzone per Woody. Difficile pensare a un omaggio più eloquente di così. Un tributo, quello di Dylan, che non si esaurisce solo a parole. Guthrie, di fatto, è uno dei motivi fondanti per cui Bob Dylan, nell'inverno del 1961, decide di trasferirsi a New York City. Fuori è buio pesto. Le luci di McDougall Street nel Greenwich Village rischiarano timidamente la via attraversando la fitta muraglia di neve che precipita senza sosta. Fa un freddo tremendo, il freddo più intenso degli ultimi 15 anni. In giro per le strade c'è un biancore irreale che avvolge e attutisce tutto quanto. È solo al di là delle vetrine dei bar e delle coffee house che si percepiscono distintamente dei suoni. Ed è proprio in uno di questi luoghi che in quel rigido gennaio newyorkese si presenta un giovanotto con lo zaino e la chitarra, spaesato per la grandezza di quello che lo circonda, ma ansioso di imparare a conoscerla, quella grandezza. Ansioso soprattutto di cantarla. Rambling around your cities, rambling around your towns, I never see a friend I know as I go rambling around, boys, as I go rambling around. Pezzi come Rambling Round di Woody Guthrie fanno parte del repertorio del giovane menestrello Dylan. È proprio lui a cantare la versione che avete appena ascoltato. In quel gelido inverno newyorkese, Dylan si aggira per i bar, i folk club, i caffè del village, suonando il suo repertorio e prendendo sempre più confidenza col proprio talento. Ma Bob non è venuto a New York solo per cantare. È venuto per incrociare il suo magnifico destino con quello di un idolo. L'edificio è imponente. Ogni mattone rossastro, ogni cornicione, ogni finestra racconta la storia delle anime sofferenti che sono passate di qui nel corso di poco meno di un secolo, a partire dal 1876, anno della sua fondazione. Il Greystone Hospital è un istituto per la cura delle malattie mentali situato a Morristown, nel New Jersey. Bob Dylan ci arriva in autostop da New York City. È eccitato, ansioso di incontrare il suo idolo, impaziente di stringere la mano a colui che più di ogni altro lo ha ispirato. Woody Guthrie è ricoverato in una delle molte stanze della clinica, affetto dal fatale morbo di Huntington. Eppure, la terribile malattia non sottrae, agli occhi di Dylan, nemmeno un briciolo di fascino al suo mentore ideale. Io sono niente più di un tizio che cammina. A fatica potresti riconoscermi in mezzo a una gran folla. Sono assolutamente uguali a chiunque altro. Strade, parchi, grandi fiumi. Io viaggio attraverso di essi. Non siete contenti che io viaggi e lavori per voi? Se mi fermassi, toccherebbe a voi alzarvi, lasciare il vostro impiego e mettervi a viaggiare, perché c'è così tanto da scoprire che qualcuno lo deve pur fare. Fare il cantore dell'America è un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pur fare. E sarà proprio Dylan a raccogliere l'eredità del suo mito. Guthrie quel giorno è scosso, fra fremiti continui. Riesce a malapena a parlare, ma Dylan gli si siede accanto, suona la sua chitarra e riesce comunque, in qualche modo, a instaurare una forma di dialogo basato sulla musica e sullo scambio, reciproco, di sensazioni. È grazie a Guthrie che Dylan ha messo a fuoco ogni cosa, musicalmente parlando. Quello è il suo modo di dirgli grazie. Ho conosciuto Woody. L'ho conosciuto. L'ho trovato, l'ho visto, sono stato da lui, ho suonato per lui. Ho conosciuto Woody. Accidenti. Ora, con la benedizione spirituale e materiale di Guthrie, la carriera di Bob è davvero pronta per decollare. Tu scrivi e basta. Non badare al motivo. Io non faccio altro che raccogliere motivi dove capita. Li cambio e li faccio miei. Al posto di una nota lenta ne metto un paio svelte. Canto una nota di armonia piuttosto di una di melodia. Sostituisco una nota bassa con una alta. Oppure gioco un po' con le pause e gli intervalli. Ed eccoti una melodia tutta tua. Io faccio sempre così. È solo dopo aver conosciuto Guthrie che Bob Dylan si mette seriamente a comporre canzoni proprie da affiancare al repertorio composto da pezzi folk tradizionale. Dylan furoreggia nei locali del Greenwich Village e gli capita spesso di suonare l'armonica durante le performance o negli album degli amici. Lo fa ad esempio nel disco della folk singer Carolyn Hester. È proprio grazie a questo album che il celeberrimo talent scout John Hammond si accorge della bravura di Dylan. Da qui a metterlo sotto contratto con la Columbia Records, il passo è molto breve. New York gli ha davvero portato fortuna. Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing. Accorrete, gente, dovunque voi stiate vagando, e ammettete che le acque attorno a voi stanno crescendo, e accettate che presto sarete inzuppati fino all'osso. E se le vostre vite per voi rappresentano davvero qualcosa, fareste meglio ad incominciare a nuotare o affonderete come pietre, perché i tempi stanno cambiando. Siamo all'inizio degli anni 60, tempo di novità, di riadattamenti, di finestre spalancate su un futuro diverso. L'America intera sta cambiando e il destino di Bob Dylan in quei giorni elettrici e convulsi si sta compiendo nel Greenwich Village a New York. Il suo primo disco omonimo esce nel 1962 sotto l'etichetta Columbia Records. A metterlo sotto contratto è stato il celebre John Hammond, già scopritore di talenti del calibro di Billie Holiday, Benny Goodman, Aretha Franklin. Il nome di Bob Dylan, il suo nuovo nome, quello che ha scelto per sé come artista, è già garanzia di qualità nel circuito degli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche una ragazza mora dalla voce d'usignolo. Lei si chiama Joan Baez. E dal suo magnifico incontro con Bob Dylan sono destinate a nascere di lì a poco grandi cose. Word is to the kitchen gone, and word is to the hall, and word is up to Madam the Queen, and that's the worst of all. Joan Baez è una giovane folk singer che ai tempi dell'esordio di Dylan ha già avuto la fortuna e la bravura necessarie per pubblicare due album di successo. È lei stessa a raccontarci le circostanze del suo primo incontro con Bob. La prima volta che ho visto Bob è stato al Gurdy's Folk City. Mi avevano detto: quel ragazzo è un genio, scrive canzoni bellissime, è un grande fan di Woody Guthrie. Io ero piena di dubbi, perché mi sembrava così strano il fatto che qualcuno si entusiasmasse per qualcun altro, qualcuno che non ero io. Però a sentirlo poi ci sono andata, e beh, devo ammettere che Bob era davvero tutto quello che mi avevano promesso che fosse. Joan rimane folgorata dal talento impressionante di Bob e dalla sua apparentemente innata capacità di riversare i propri pensieri in musica. Il genere delle sue prime composizioni è peculiare, parzialmente mutuato da Woody Guthrie, ma arricchito dallo stile vagamente indolente specifico di Dylan. Si tratta di una sorta di talking blues, una forma a metà tra la canzone vera e propria e lo storytelling, un ibrido perfetto per raccontare le esperienze spesso crude e laceranti tipiche dell'immaginario folk. Uno stile adattissimo a far da sottofondo al clima crescente di dissenso che aleggia sull'America in quegli anni. Il sud degli Stati Uniti, popolato in gran parte da conservatori ed ex schiavisti a partire dai primi anni 60, si trasforma nel campo di battaglia perfetto per iniziare la guerra sui diritti civili. L'attivismo politico si diffonde a macchia d'olio prima nei campus universitari e poi nelle strade, incendiando gli animi con la sua fiamma inestinguibile. Dovremmo dar voce alla nostra coscienza e comportarci seguendo la nostra idea di giusto e di sbagliato e non essere così disperatamente passivi, che poi invece è quello che fa la maggior parte della gente. Secondo me la passività è la peggiore malattia dei nostri anni. Siamo sempre lì a dar retta a quel che ci dice il papà, la mamma, la professoressa, la catechista, il presidente. Joan Baez, attivista infervorata, trascina Bob Dylan insieme a lei sui palcoscenici per cantare la voglia di cambiamento. Ed è proprio cavalcando l'ondata di protesta che la già celebre Baez fa conoscere a tutti l'apparentemente timido ma incisivo Dylan. Un giovanotto dall'aria normale, eppure così speciale nel suo modo e nella sua capacità di farsi interprete dei desideri di un'intera generazione. A giudicare dagli applausi, direi che non c'è bisogno di fare altre presentazioni. Ecco Mr. Bob Dylan. L'occasione in cui Bob Dylan e Joan Baez si esibiscono cantando insieme The Hour the Sheep Comes In non è scelta a caso. È su quello stesso palcoscenico che sale anche Martin Luther King per il suo storico discorso I Have a Dream. Io ho un sogno. Bob era il mio compagno e sapevo che stava per diventare una star grandiosa. E la cosa, beh, mi piaceva. Joan e Bob vivono un'intensa stagione musicale amorosa. Stanno insieme, lavorano insieme, diventando per la stampa americana il re e la regina della protesta. Dylan si affida volentieri alle indicazioni che la più esperta Baez sa dargli. Mi chiedeva sempre: cosa ne pensi di questo? A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain, but he can't be blamed. He's only a pawn in their game. John introduce Bob negli ambienti giusti, cantando e sponsorizzando le sue canzoni rivoluzionarie. Dylan, per ricompensarla, le regala alcuni dei suoi pezzi più belli. Farewell Angelina, uno dei pezzi più celebri della Baez, è stato scritto proprio da Bob Dylan. Il ragazzo d'oro della canzone di protesta si accompagna con la leggiadra fanciulla dai capelli corvini e insieme a lei cavalca l'onda dell'indignazione di un paese intero. Io questa spinta politica la sentivo fortissima, gigantesca. Sapevo che noi due potevamo fare grandi cose insieme. Ma l'idealismo della Baez sarà costretto a scontrarsi con una dura realtà. A Bob Dylan le etichette stanno strette. Espressioni come la voce della nuova generazione o il profeta della musica folk, spesso usate dalla stampa più entusiasta, non sono altro che dei tentativi di inquadrare una figura, quella del musicista Dylan, che non ha nessuna intenzione di essere inquadrata. Why? Perché canto. Just because I feel like singing. Perché mi va di cantare. Progressivamente, inesorabilmente, a partire dalla metà degli anni 60, Dylan prenderà le distanze dal folk e dalla canzone di protesta, per concentrarsi sull'esplorazione di se stesso e delle proprie possibilità musicali. Quando salirà su un palcoscenico, non sarà più per protestare, sarà per venire consacrato come rock star. I magnifici destini. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Nella seconda metà degli anni 60, Bob Dylan si lascia alle spalle il folk e la canzone di protesta che tanto hanno contribuito a lanciarlo. La sua musica si farà via via più surreale, più intimista, addirittura più mistica. Si farà oltretutto più elettrica. L'album Bringing It All Back Home è il primo in cui Dylan fa uso di chitarre non acustiche. Bob Dylan è un giovane alla ricerca del suo stile, preso dalla forsennata esplorazione del proprio ego artistico. Ha poco più di 20 anni, ma ha già compreso i meccanismi infernali che si accompagnano alla benedizione della fama. Prendere in giro la stampa diventerà la sua seconda vocazione dopo quella musicale. A parlarcene è ancora John Baez. Lui mi diceva: sai, tra qualche anno tutta quella gente, tutti quei coglioni saranno lì a spendere parole su quello che scrivo. Io non so proprio da dove venga fuori quello che scrivo. Io non so di che cazzo parlo e loro, tra qualche anno, non faranno altro che parlarne. Se la stampa ormai non fa altro che demonizzare i suoi atteggiamenti, accusandolo di aver usato il folk ai venti di protesta solo per fare carriera, per poi vendersi al più appetibile universo del rock and roll, quella stessa critica non può far altro che riconoscere la perfezione di una trilogia di album come Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde. La nuova deriva artistica di Dylan è certamente più complessa e sfaccettata degli esordi, influenzata com'è anche dalla British Invasion, che a metà degli anni 60 vede i Beatles sbarcare in America per sconvolgere le platee d'oltreoceano. Il suo sound si avvicina così al beat, producendo risultati straordinari, come nella splendida Visions of Joanna. Of Johanna that conquer my mind. Dylan sta conciliando la musica pop che sa muovere le masse e i grandi numeri con forme più alte di espressione artistica e poetica, anche se lui continua ad essere molto restio alle definizioni. Ho sempre sentito l'urgenza di scrivere un certo tipo di rima. Ho bisogno di dire le cose che mi passano per la testa, ma da qui a considerarmi un poeta, ma... non so nemmeno se ho la qualifica, gli strumenti per farlo. Cioè, se io entro nel campo della poesia, ci entro dalla porta di servizio, diciamocelo. Non so cosa penserebbero di me e della mia roba Robert Frost, o Keats, o Eliot. I costi personali di una vita da poeta o da rockstar, a seconda delle definizioni, sono comunque enormi, al punto che nel 1966 Dylan si ritira per qualche tempo dalle scene, anche in conseguenza di un brutto incidente in moto. Qualche anno più tardi, nel 1969, Bob non salirà in carne ed ossa sul celebre palcoscenico di Woodstock, ma lo farà comunque per interposta persona. Sarà Joan Baez, in quell'occasione, a cantare le sue canzoni. Jimi Hendrix, intanto, ha già pensato bene di omaggiare Dylan con la sua chitarra. La versione di All Along the Watchtower, pezzo scritto da Dylan e riarrangiato da Hendrix nel suo celebre album Electric Ladyland, è rapidamente diventata un classico. Tra espliciti omaggi e palesi influenze, negli anni 60 si fa avanti una nuova schiera di musicisti newyorkesi, di nuovi inquilini del Greenwich Village che si proclamano a vario titolo eredi di Dylan. Tom Waits, Bruce Springsteen, la poetessa del rock Patti Smith. I like the fans. Mi piacciono i miei fan, ma non ho l'ambizione di essere un esempio per loro. Non sono un giocatore di football, né di baseball, né un musicista diverso da quello che sono, magari uno meno scontroso. Io sono scontroso. Dylan attraversa le epoche musicali restando fedele a se stesso e al suo essere un burbero talentuoso musicista parzialmente rabbonito dal passare del tempo. Nel 2011 ha spento 70 candeline e il mondo del rock non ha certo mancato di celebrare un compleanno così importante festeggiato dal diretto interessato con una nuova serie di concerti in giro per il mondo. La stampa, la sua acerrima e immarcescibile nemica, non si è ancora stancata di cercare l'erede morale di Dylan e sembra averlo trovato in tempi più recenti nel cantautore americano Ryan Adams. Everybody wants you to be special. And everybody wants you to be high. They throw you down a rope when you're in trouble, baby. Scream and save me. Then they charge you with the rescue blue. All'inizio del nuovo millennio, il poco più che ventenne Ryan Adams da Jacksonville, North Carolina, viene additato dai giornalisti come il nuovo Dylan. Io sarei spaventato a morte se fossi in te. Insomma, se la gente mi paragonasse a Bob Dylan, sarei lusingato, per carità. Però che ansia. Di solito la prima cosa che penso è... Stai scherzando, vero? Poco importa chi sia il nuovo Dylan o se abbia senso di fatto cercarlo. Musicista morto e risorto decine di volte, sparito e riapparso, compreso e incompreso, idolatrato e fischiato, amato e detestato, sempre comunque abile nello sfuggire velocemente a qualunque definizione. Che poi, a ben vedere, insieme alla musica, sfuggire e rotolar via dalle etichette è davvero la cosa che gli riesce meglio. Dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.